Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono già iniziati i battibecchi su chi deve partecipare alle ricorrenze del 25 aprile. E la sinistra discute su chi ne ha il diritto, su chi dovrebbe esserci, ma sarebbe meglio di no. Ogni anno si ripete la sceneggiata che svilisce il ricordo e il significato di questa giornata. È così che si guarda al futuro? È così che cercano di trovare il consenso che non hanno, cercando di far apparire indegno di partecipare chi ha la maggior parte degli italiani dalla sua parte? Un po' di sensibilità, almeno, se proprio non vogliamo parlare di intelligenza. Meglio tardi che mai. Così il segretario del PD, Dario Franceschini, ha commentato la decisione del premier Berlusconi di partecipare alle manifestazioni per il 25 aprile. Non riesco a capire se Franceschini sia più antipatico o più arrogante. Che ne dite? Facciamo un referendum? Giulia. Perché non cercare l'elemento unificante del 25 aprile nel valore della democrazia e della partecipazione politica? Oggi lo si sta perdendo. Io faccio un po' di politica locale in un piccolo paese del Milanese e avvicinare i giovani alla politica è difficilissimo. Per loro sembra quasi che non siamo in una democrazia. Usiamo questa festa per far capire che la democrazia è un valore non scontato, costato sangue, che vive solo se la gente esercita il proprio diritto a incidere sulle scelte del potere, partecipando. Altrimenti la libertà si può anche perdere, come è successo con il fascismo. Ida, Milano. Ricordo quello striscione. Hitler, dopo gli ebrei, i napoletani. Ero in Curva Nord. Mi piaceva cantare e tifare per l'Inter. Quel giorno cominciai a rendermi conto di come quel piccolo mondo che è la curva avesse dei lati oscuri. Un settore prenotato dagli skins, cori al duce e al fascismo, qualcosa che sembrava scivolare via dopo le due ore di calcio, quasi che queste persone avessero vita solo lì dentro. Sono passati più o meno 20 anni. Ricordo vagamente il colpevole dello striscione, aveva naturalmente fatto tutto da solo, intervenire a scusarsi in TV, forse alla domenica sportiva, non ricordo. Era un padre di famiglia, non uno scavezzacollo. Aveva fatto uno sbaglio. Chi non ne fa? Non ricordo condanne, forse avrà pagato. Però, 20 anni dopo, le cose sono peggiorate. Le curve sono cresciute, qualcuna a destra, qualcuna a sinistra. Quasi nessuna è cresciuta per la squadra. Ma i tifosi del Liverpool erano dei delinquenti? Dei criminali? Già, invece i nostri sono bravi ragazzi. Qualche volta è la compagnia a farli sbandare, ma fondamentalmente sono dei bravi ragazzi. Si sentono frasi del tipo «L'ispettore Raciti è morto per un incidente». I cori razzisti sono solo cori di scherno. Le pedate di Mario sono date da un ragazzo caratterialmente difficile, mentre le pedate di Le Grottaglie appartengono a Gesù. E intanto le curve crescono. Sono riuscito a sentire dire «Non ci sono negri italiani», cantato probabilmente da un piccolo gruppo di idioti, ma amplificato da molte parti dello stadio, quasi un «You'll never walk alone» italico. Ha ragione Moratti, ci siamo assuefatti al razzismo da stadio. Lui ha poteri per iniziare a contrastarlo. Speriamo che qualcuno lo segua. Scusate lo sfogo. Io ammiro Mario Balotelli per la sua grandezza col pallone tra i piedi. Forse, se arrivasse un'offerta da qualche grande squadra inglese, sarebbe il caso di lasciarlo andare. Lui merita palcoscenici ben più importanti di quelli italiani. Flavio. Premetto che allo stadio non vado quasi mai. L'ultimo incontro che ho seguito all'Olimpico di Torino è stato Juventus-Brescia, quando la Juve era in Serie B. E proprio in quell'occasione tutto lo stadio si è messo ad urlare «Bresciani di M!». Mi chiedo, visto che l'ho urlato pure io, anche se contro i bresciani non ho nulla, se sono razzista. Il coro è durato praticamente per tutta la gara, a intervalli più o meno regolari. Quindi adesso mi chiedo, l'arbitro aveva i tappi nelle orecchie? I giornalisti erano in vacanza? Gridare negro di M o bresciano di M, che differenza fa? Sicuramente lo stadio, a parte qualche imbecille, non è composto da razzisti, solo da gente che magari si fa trascinare in cori idioti come quelli contro Balotelli, perché se uno è razzista sempre, quindi avrebbero dovuto insultare sia Muntari che Vieira, e inoltre sarebbero comparse scritte contro l'arrivo di Sissoko, peraltro uno degli idoli della curva dei razzisti bianconeri. E poi ci dimentichiamo dello zingaro di M gridato a Zlatan. Non è razzismo pure quello? Io, anche se vivo a Varese, sono di origini siciliane. E quando sentivo gridare a Schillaci di andare a rubare le gomme, sapevo benissimo che era solo uno sfottone nei confronti di un giocatore colpendolo nelle sue origini meridionali. E non certo perché si voleva offendere tutti gli abitanti del sud. Pure il presidente Moratti, quando furono gli interisti ad offendere Zorò, difese i suoi tifosi, sapendo benissimo che non erano certamente dei razzisti. E come potrebbero? L'Inter ha nelle sue fila diversi giocatori neri, serbi, colombiani, rumeni, eccetera, eccetera. Ma gente poco intelligente, come lo siamo stati noi sostenitori della mia Juve sabato sera. Mi metto dentro pure io, anche se non ero presente allo stadio, ma forse avrei detto o fatto le stesse cose per offendere Balotelli. Certo senza vantarmene, ma probabilmente lo avrei fatto. Se il punto è quello di non offendere avversari o tifosi, mi stanno bene le critiche che vengono a levarsi ogni qualvolta succedono queste cose, ma dire che lo stadio olimpico sabato sera fosse pieno di razzisti non mi trova d'accordo. Lettera firmata. Stazione di Bologna, ore 7:38, in coda davanti ad uno sportello della biglietteria. Le code davanti agli altri sportelli procedono veloci, quella del mio non va avanti. Due ragazze africane, un anno fa avrei detto negre senza alcuna intenzione offensiva, stanno evidentemente ponendo lunghi quesiti al bigliettaio. Una giovane davanti a me, esasperata perché rischia di perdere il treno, si fa avanti e dice al bigliettaio: «Questo non è un ufficio informazioni, ma una biglietteria. Apriti cielo». Le due ragazze africane si rivoltano come pantere e gridano alla ragazza italiana: «Cosa vuoi? Torna a casa tua». Davanti ad una frase del genere, le reazioni possono essere molte e diverse. Reazione seria ottimista: «Che bello, queste si sono tanto integrate da sentirsi a casa propria e mandare via la precedente inquilina». Reazione seria pessimista: «E poi ci si meraviglia se cresce l'intolleranza». Reazione violenta, tipo stadio: «Tornateci voi, negre di M». A me è venuto da ridere, perché stavo andando a parlare ad una tavola rotonda sulle conseguenze del razzismo e a dire le solite cose di circostanza. Ho consolato la ragazza italiana che ha incassato e ha cambiato fila e ho pensato che non si tratta di razzismo, ma di maleducazione reciproca. Laura. In questi giorni ho sentito delle cose inconcepibili dai media e dai radioascoltatori che giustificano i cori razzisti, cose che hanno un peso tale da far diventare la stupidità un reato. Partendo dal presupposto che qualsiasi commento nei riguardi del ragazzo è fuori luogo, i media avrebbero dovuto limitarsi a condannare i cori di Torino senza ma e senza però. Molti, invece, sono stati capaci di trovare delle attenuanti. Mi domando allora dove stiano gli errori di Balotelli. Inizio da Inter-Roma. Dopo una serie infinita di cori razzisti, Mario tira e segna un rigore. La sua reazione, dito sulla bocca rivolto alla curva romanista, è stata condannata dai grandi saggi del calcio, come Mazzone e Totti. Una bella coppia, quelli sì che hanno molto da insegnare in quanto a self-control e fair play. Ma non basta. Subito dopo Panucci cerca di fermarlo con una spallata e poi lo rincorre minaccioso. Balotelli risponde mostrandogli la lingua e che sarà mai in confronto alle offese ricevute. I media lo hanno a dir poco crocefisso in quell'occasione, dandogli il passaporto di nero insultabile. E infatti, alla prima occasione, i cori si sentivano a chilometri di distanza. Qualcuno poi ha calcato la mano definendolo un bulletto. Il motivo sarebbe il ritardo di 2 o 3 minuti con il quale si è presentato in campo. Tutte le trasmissioni televisive a cui ho assistito erano improntate sul motto: «Sì, i cori sono incivili, ma lui è un provocatore, non si sa comportare, sbeffeggia l'avversario». Quasi quasi Balotelli è passato da vittima a colpevole. Visto che tutti hanno detto che almeno mezzo stadio gridava quelle frasi ignobili, presuppongo che vi siano stati anche ragazzi, ragazze, magari intere famiglie, che facendosi scudo del gruppo si divertivano ad insultare un'altra persona. Ma dove sta andando la nostra generazione? La mia visione del calcio è molto lontana dalle posizioni di chi giustifica simili comportamenti, però una soluzione dovrà pur esserci per far finire ciò che si vede e si sente nei nostri stadi. Io credo non alla buona volontà degli addetti ai lavori, ma alla necessità di far pagare a caro prezzo chi si infanga di certi comportamenti, senza cercare scuse nella società, nel degrado delle nostre periferie, nell'ignoranza e altre fesserie buoniste. Bisogna far pagare i giocatori con maxi squalifiche, come nel caso di quel giocatore del Cittadella che ha inveito contro l'arbitro dopo essere stato espulso. far pagare i dirigenti con lunghe squalifiche del campo e magari togliere loro il sontuoso assegno delle pay TV. La realtà è che nessuno, in quanto in qualche maniera coinvolto per propri interessi, avrà mai il coraggio di intervenire. Lettera firmata. Sono un'accesa tifosa juventina. Davanti alla TV sabato sera mi sono vergognata dei cori che sentivo e ho approvato la punizione comminata. Però adesso esagerumanen, come si dice dalle mie parti. Non si può ragionevolmente pensare che allo stadio, quella sera, fosse convenuto il più numeroso circolo del Ku Klux Klan d'Italia e additare al pubblico ludibrio chiunque tenti non una scusa né una minimizzazione, ma solo un approfondimento e un qualche distinguo. È giusto ed educativo stigmatizzare duramente le frasi che si sono sentite, ma non lo è altrettanto dedurne che i 25.000 o quanti erano presenti fossero dei convinti razzisti. Giusto sarebbe invece tenere presente l'emotività rancorosa, giusta o sbagliata che sia, che al momento gli juventini provano verso l'Inter e che nel clima dello stadio ha scollegato totalmente le bocche dai cervelli. Alla fin fine, forse, i distinguo potrebbero contribuire di più ad un ricollegamento cervelli e alla formazione di una cultura sportiva piuttosto che critiche indiscriminate. Monica. Certo che con la fatica che si fa in Italia a condannare un reo, sapere che poi costui non sconterà la pena o, nella migliore delle ipotesi, la sconterà molto parzialmente, deprime anche il più ottimista degli italiani onesti. Ci dicono che non si può sperare nella certezza della pena a causa della cronica carenza di carceri. Ogni volta che lo sento dire, mi viene in mente quando, bambino, negli anni 50, passavo sotto quelle che allora erano chiamate le carceri mandamentali. Stavano in una viuzza nel centro del mio piccolo paese di 6.000 anime. Si trattava di un piccolo stabile con qualche sbarra alle finestre dove venivano custoditi i piccoli malfattori che dovevano scontare un breve periodo di detenzione. Ma lo scontavano. E non era neppure necessaria la polizia carceraria. Chi li controllava era una normale persona stipendiata. Insomma, quasi un bed and breakfast. Stranamente, tutto funzionava. E non che i delinquenti di allora fossero molto più gentili di quelli di oggi. Non ricordo tra il resto di evasioni o di sommosse. Penso che tale tipo di carcere fosse alquanto diffuso sulla falsariga del sistema americano, laddove, come vediamo nei telefilm, la pena è spesso costituita da una o due notti in galera. Noi, invece, teniamo pericolosi soggetti agli arresti domiciliari o addirittura a piede libero. Per concludere, lancio una proposta provocazione. Disseminate sul territorio, vi sono tante caserme in disuso che potrebbero ospitare molti piccoli delinquenti senza neppure necessitare di ristrutturazioni faraoniche. E la tinta alle pareti, piuttosto che la manutenzione dei servizi o la coltivazione dell'orto, potrebbero venire affidate a loro. E se poi evadono, direte voi? Ma così come stiamo, non vi pare che, quando usciamo in strada, gli incontri con gli evasi legalizzati siano già ora una cosa assolutamente normale? E allora tanto vale provare a portare avanti un progetto poco dispendioso di carceri leggere, anche solo per dare un messaggio all'italiano onesto. Grazie. Candido. Caro Candido, la sua proposta ha indubbiamente molti lati apparentemente positivi. Lei vorrebbe delle carceri a misura d'uomo, magari collocate nelle tante vecchie caserme ormai inutilizzate, con una sorveglianza leggera, quasi, lei dice, da bed and breakfast. Ma questo garantirebbe veramente la certezza della pena? Qualche dubbio, mi sembra legittimo. Guardiamo a qualche caso concreto, come ha raccontato pochi giorni fa Donatella Stasio sul Sole 24 Ore nel carcere napoletano di Poggio Reale. Alla fine di gennaio c'erano 2.544 detenuti, 1.200 in più dei posti regolamentari. E la grande maggioranza di questi, 2.200, erano, e probabilmente sono tuttora, detenuti in attesa di giudizio. C'è quindi in Italia un problema delle carceri, ma c'è, ancora più profondo, un problema dell'efficienza della giustizia, perché la certezza della pena inizia dalla certezza di un giusto processo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.